Questo, Anto, pregatene. No, ma tu lo fai andando in viale Porta Torre, sai, se mi fermo un attimo così vediamo un po' cosa si può fare per questa portante. Capo, adesso le vende poco forte, io mi sono in compagnia con un po' di pomponi, insomma. Sta arrivando un bel forte, sta arrivando. Comunque la resa è cambiata totalmente, te ne sei accorto? Sì, ne approfitto anche per salutare il buon Pomponio. Ciao Giuseppe, salutoni. Ben entrato. Meglio sto scendo di modulazione, so se attaccando una specie di cappuccetto quello di questo microfono. Faccio via del bus con un coso di bellino di estetica. Comunque Anto, la portante non ti sta disturbando più di tanto comunque. Capo, no, non mi fa niente. Capo, no, già lo so, manca a te, tu la passi, inutile che lui metta la portante. Non c'è ancora accorto che ho un minchione che non va da nessuna parte. Qua si guarda con lo scala, sì, sta arrivando fortissimo. Capo, Anto, vediamo un pochino se riusciamo a bruciare la portante all'amico che sta giocando, dai. Mi sa proprio di sì, mi sa proprio che lui gioca, ma non fa niente, si fa solo la pugnetta, si fa, ma che stronzo. Io non lo so. Sì, anche perché, come ti ripeto io, figurati che manco mi si ora. Non può stare così se a mezzanotte, guarda, che per me va benissimo. E poi ti sto dicendo, vai tranquillo, lo stai coprendo alla grande. Anche tu, non hai nessun disturbo da questo elemento qui. Avanti, Pompù. Bello, bravo, Giuseppe, spostati verso tua casa, io. Ciao Mario, ben sentito e ben trovato. Ascolta, io sono in viale Porto Torres e adesso passo, attacco la gru e ti butto giù l'antenna, vai. Vai, se fai quello poi con il resto della terra te la lega al collo. Mannaggia, possiamo fare sempre una prolunga da te a casa e la colleghiamo alla mia e Mario. Non fa, magari si potesse. Facciamo un collegamento con il tizio su, banchina a banchina. Pronto, lasciato. Ehi, andata lì. Sali, non c'è problema. Ok, ma adesso, sai, qua, che così ci portiamo quella roba. Va bene. Capa, sì. Ok, comunque tutto oggi, stamattina abbiamo seguito un po' dappertutto, l'abbiamo seguito, ma con Giuseppe, quindi l'antenna rende alla grande, poi ci sente che è forte il radio anche. E capa di Roger, Anto, poi con Pomponio Farmaco dobbiamo terminare il lavoretto, dopodiché va bene. Capo, ma ora sei in movimento, sì. Sì, adesso mi sto muovendo. Capo, 9:30 è Radio Super, Radio 5. Giuseppe! Sì. Guarda, mio figlio ha detto, se vuoi passare a casa, prendi il caffè. Anche Mario! Facevo due lanci lì vicino al coso di Fertiglia, al porticciolo di Fertiglia. Capa, adesso poi sta passando qui, ci davamo anche le canne. Addirittura, figurati tu, allora sei attrezzato bene, Mario. Capa, guarda, sono qui in quest'angolo, ne conto quattro. queste guardie di arresto ce n'è qualcuno in più. Andà bene Mario, va bene, anch'io ne ho qualcuna, una bella matita in mezzo di carbonio da Serve Casting e un bel Mitchell senza l'archetto, diciamo che va bene, dai, è giusto per passare un paio d'ore davanti al mare, se poi si prende, beh, venga, noi attaccati all'amo. Oh Giuseppe, a quale ora stai passando? Viale Porto Torres, ancora Viale Porto Torres, all'altezza cosa posso dire? Dell'Aggi, Pulai, Murinedo. Capo, sei a fondo scala, fisso, non ti stai muovendo di un millimetro in questo momento. Ma Mario, non so, Mario, come ti arrivate? A me mi arriva un po' più basso. È fortissimo qua, sta arrivando, molto forte. Se mi capi di un canale, lo sento anche di un canale, lo sento. Tutto roccia. Anto, adesso faccio una piccola deviazione, scendendo passo a sistemare l'antenna di Mario, dai. Guarda che se sei a Murinedo, poi venitemi a casa, la bretella, giri, passi, ti pigli il caffè, ti do una canna, niente. E poi quando ritorni me la riporti. È capo di positivo Mario, dai. E poi stasera dovrebbe essere anche buono per buttare giù un paio di canne. Capo, ma io in questo monumento non c'ho la BM. Sono coldelli e non è che mi posso spostare più di tanto, capito? Se no già mi sarebbe piaciuto andare in greppa come una volta a farci quattro lanci. Ma non c'è problema Mario, si può sempre organizzare adesso quando comincia qualche bella giornata e rispolverare anche l'attrezzatura, dai. Un paio d'ore ci si possono anche passare davanti al mare, perché so che anche Gianni Doppio Rum è appassionato di pesca. Che è Gianni Doppio Rum? C'è Luca, c'è California, ce ne sono tanti CD che sono appassionati per la pesca, dai. E capa Mario, capa, dai, va bene così, dai, anche uno sportivano quello. Gappa, va bene. Oh, comunque, se vuoi passare il campanello sotto il pano, tu guarda dove vedi l'antenna, ti fermi sotto, l'articolato lo portigi leggermente più giù, vicino alla vecchia chiesetta dove ora c'è il circolo, e non c'è problema. Cappa Mario, sei veramente un amicone, ci mancherebbe altro. No problem. Andà bene. Ma il buon Antonio dove l'avete lasciato? È a passeggio oppure è sempre su che sta sistemando tutta la maradam? Cappa, no, io l'ho sentito, è la casa sua, è stato modulato col mio apparato, col mobico e col microfono della sua destra. Niente, ci stanno salendo anche Natalino. Comunque non c'è problema. Ho sentito quando stavamo volando con il tuo apparecchio, io stavo rientrando da Punto in Barra Pesante, giù a Campovela mi stava spaccando i timpani. Cappagatto, lui lì è in alto, e ci arriva bene. Sì, ma anche l'apparecchio come lo stava sistemando è alla grande, perché ha fatto alcune prove di coso, di apertura, di, a come si chiama, APL, quel componente. La LC. La LC, ciao un po', mannaggia Marina. Ciao Gesù, ciao su. Sempre questa è la toccata anche in watt, usciva a 5 watt. Ho preso, ci ho messo la manina e sono tirato fuori 18 tondi. Andà bene lei la pompa, stai andando alla grande. vediamo un poco come siamo messi con mio compare e che cosa mi dice. Secondo cosa mi dice, quel pubblico finisce che l'ho piatto sulla barretta, a ver, sul camioncino. Ah, vabbè, se lo vuoi piazzare lì, il problema non ce ne stanno. Al limite rimettiamo il diavolo con il microfono, se no un microfono già ne hai, il microfono amplificato lì, non c'è problema. Già si vede, qualcosa gli si mette. Niente, cosa stavo dicendo? Forse mi busco pure un autocetto, là. Che secondo come va ho la turbo, niente, e così faccio tutto l'impianto nel coso, nel camion, per mettere la basetta, già lo dico a coso, mi faccio smontare il parafango e me la faccio mettere attaccata al parafango di sinistra. Mi sembra che non c'è bisogno di smontare il parafango, io l'altro giorno quando sei passato ho visto un foro io di. Però non so se c'è il peso di sotto, la verità è che non c'è proprio niente in casa, ma ce ne sarò piacere a piazzarlo, perché nelle cose come puoi piazzarlo nelle cose ferrovie c'è dietro, mica è ribaltabile quel camioncino. Vabbè, ma lo metto nell'antenna davanti perché va meglio e mi viene più comodo per toglierla. E così non me ne la fregano, capito? Ah, vabbè, allora fare così, al limite se c'è lo scatolato, si toglie lo scatolato di sotto, si piazza la basetta e poi si rimette dopo lo scatolato che c'è sopra la ruota. Cioè la fesseria piazzarla, no, non è un problema per quello. Potrò passare dentro la capiglia, il filo. E ti fai ti piace la staffetta, cioè ce l'hai la staffa, è traibile. Non fai altro che quando sei in macchina lo inserisci e poi lo porti via. E cappagappa è quello che volevo vedere. Adesso vediamo come si mette questo mese. Perché secondo me come si mette posso fare quello e altro, là. Adesso vediamo un po'. Va bene, se fortunato che è quello che penso io, auguri per quello, almeno non è più problema di stare avanti indietro di quelle cose. Quindi, poi intanto che ti stare in fisso sei tranquillo, come la macchina fosse la tua, anche se non è la tua. Sai che la guidi tu tutti i giorni, quindi. Ma vado pure a casa con quella, già l'hai visto poi, che io problemi di quel genere non ne ho. Antonio, se ci sei è tutto per te, avanti. sto parlando al telefono. Cappa, avanti i saluti, vai. Cappa? Ah sì, è il conduttore, si usa. Diciamo che ero in viale Porto Torres, adesso mi sono fermato all'altezza della salita di, chiamiamola di Monteoro, dai, la strada nuova, lo scorrimento veloce di Peraghero. No, perché se ne vado una bombetta qua? Chissà che il ragazzo scaldando non comincia a darmi qualche soddisfazione dopo tanto, insomma. Cavolo, c'era già un paio di mesi e stavo sempre prendendo coltello, sa lui. Un po' di guarani di gloria, ci vuole. Papà Rogero, si conferma. Vabbè, un ultimo segnale, cioè, per essere quelle coordinate, sì, 9.25, quasi 9.30, tutto positivo per te. Vuol dire che tutto sta andando per il meglio, capo. Anche tu qua mi stai arrivando 9.25 radio 5 lode, Saverio, eh? E io quanto ti sto arrivando allora? Allora, fammi un passaggio. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Oh, gli ho parlato sopra Mario, non te ne sei accorto, schiacciato prima di volare lui. Riprova, vai. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Mario 9.30 radio 5 chilometri, cambio. Così basso ti sta arrivando, io pensavo arrivato più forte. Ma infatti sono io che sto scappando prima che mi incendi il baracchino, Mario. Addirittura, no, non le faccio quelle cose con gli amici. Anello che non sei altro, non lo so io, Saverio, ci pensi tu a riprenderlo un attimino, ragazzo, che mi sta arrivando a fondo scala qui? Sì, è cosa che gli dica, io che mi faccio nello smitter, arriva sullo zero qua, 9.30, radio 5, tutta una cosa bella qua, capo? E sono contento, da, a me non mi lucido gli orecchie di tanto in tanto. Dimmi invece come arriva il tuo quotidiano, Mario. Come percepisci questa piccola stazione, cambio? Il mio è un po' raro come segnale, 9.20. Oh, già va bene, radio ce n'è, radio ne abbiamo. Alla grande, c'hai anche una puntina d'ecco. A parrocero, già va bene. Così senza ecco. Così siamo con la radio tutta scritta, Mario Hansel. Ehi, Savi, portaci un ragazzo Marco e avessi più mancati di prima. Allora, Roger. Ma ce la metti che non sei piaciuto di un rio, una bicicletta. Stavo passando l'elicottero dei vigili del fuoco, a spegnere le antenne, capo. Divertimento quando c'era la campagna di Popugno che ci trovavamo lì a sputtinare. Perché? Quando non si fa volato al rio. Gappa gappa, riprendetela Giuseppe. Grazie Mario. Niente, belle comunque le sputtinate in amicizia. Quella è la cosa più bella che ci possa essere a questo mondo. Ci si ritrova, si mangia, ci si diverte alla grande, cambio. Sì, una cosa volevo dire. Popù, se quando inizia il tempo bello non è ancora venuto la campagna, se volevo organizzare uno spuntino giù con la bella giornata, si può fare? Eia, non ci sono problemi, c'è la legna, abbiamo tagliata. Ma come si fa a voglia legna per fare fuoco lì, tutta vicina agli alberi, quindi non c'è problema. Appena migliora il tempo che fa appena del caldo, facciamo spunti molti giorni lì, ormai il ponte, ormai quel ponte che c'è è grosso, di legna al limite, se si prende la vista si fare monchiri. Al limite se c'è qualche problema ci andiamo direttamente tra gli alberi. Come se ne scendono che fanno un braccio, dopo 3 giorni cuciniamo. Tanto in quei 3 giorni noi beviamo, poi il 3° giorno mangiamo, bravo. Ero convinto che ero sul 5. No, non è attivo, sei nel 27. Comunque, non c'è nessun problema, amico. Tutti i canali sono fatti per chiacchierare. Sono il 21. Positivo, dai, salutando tutta la ruota, dai, salutando un pugno che mi sembra di aver sentito a un pugno. Il capo, ma stava scendendo giù, stavo parlando con Natalino, che devono andare a fare delle commissioni. Ma comunque con noi c'era anche l'amico Giuseppe in Barra Pesante, che sta facendo una consegna lì in quelle coordinate diciamolo di Monte Oro, ma dovrebbe essere secondo me lì a Trucco Reale. Positivo Mario, Mario Mazza, positivo, buonasera, sono sempre io, ci hai capito, sto arrivando in deposito Mario. Sì, a me c'è un collega, la Gigi Vulcano, ho detto via Gigi in IBM, Gianfranco, Gianfranco, il Gianfranco, il Luigi. Gappa, gappa. Ma lascialo fare, perché Luigi è come bambinissimo, ogni tanto gli piace giocare, e noi lo facciamo giocare. Non ho detto niente, ma già me ne sono accorto perché me l'ha già fatto un'altra multa. Già là te ne sei avvisato, non prima. Ragazzi, cosa ho pensato, per dirti la verità? Però me la stavo sospettando, me la stavo, perché me l'hai già fatto un'altra volta. Io mi sono fatto il zitto e l'ho lasciato fare, a vedere come andava. Poi si è voluto far riconoscere lui. Lo buono, e poi subito mi faccio riconoscere. Ciao a tutti che sto in deposito, ciao ciao ciao, riprendo fra 20 minuti, là, 10 minuti. E fai come voi Vulcano, noi siamo sempre qui e le porte lo sai che sono aperte a tutti, anche cancelli, cambio. Pare oggi non lavori. Mario, e tu? Oh, dimmi. Oh, salve. Hai visto come sta girando ora questa radiolina? Io ho chiuso tutti i watt, 3 watt, 2 watt e mezzo. E ho chiuso Magic Game un po', per più pulita la radio, gira anche meglio. Capo? Già non so che se metti in fatta la manetta esce forte, esce, perché sono fatte così con le radio, più di 3 watt. Normalmente più di 3 watt non le si danno, poi a comandare c'è un altro gigetto, cioè, che è quello lì che fa dare tutta la sua potenza. Solo che qualcuno non l'ha capita ancora, non voglio fare nome. È andata che si rimane la radio un po' carico. Ah, magari. No, ma non erano altissimi. Sì, ovviamente però che se è tutto fatto non andavano bene, ce ne vogliono 3 e si è tutto quanto a dama. Poi chiudi un pochettino il Mikey Game, la radio me l'ha pulita pimpante K.O. Caffa, Massimo li puoi dare 5 watt e me proprio Massimo, Massimo. Ma poi mi devi pensare, a Gigetto, mi devi pensare, si trasforma in una bestia. E sono fatte così con le radio, io oramai l'ho capita che così c'è proprio da fare, devi dargli intorno ai 3 watt, 4 watt, così massimo 5. Ma poi devi attaccare chi tu cosa, ecco. E prima di tutto ti migliora la radio, si trasforma. Se tu vai più, vai oltre, non va più bene, non va più bene. Tata, ma anche Mikey Game va un po' chiuso, perché lo vedi adesso un po' chiuso, vedi che la radio lo vuole più pulita. Se lo apro tutto, guarda, guarda, lo vedi che la radio si sporca così, Antonio. Invece non ci rimane più pulita, capa Rogero. Capa, sì, ma è fatta così, se ti abbasso il mio, una sonda. Invece è molto più forte, proprio forte, forte, forte. Oramai le cose si sanno, è così. Stamattina ho fatto una minchiata, ho fatto, me ne sono accorto subito. Ci vediamo molto. Bulldozer. Mi hai sentito, è il buon inizio di settimana. Però non ne va più di che siamo funaturi. Cazzo, io va a vedere il buon Giuseppe. Ma fate tempo a cercare, via qua un attimo. Cazzo, e me l'ha pigliato il paura. No, stai parlando con Babbo, stai parlando. Bello con me. Ok, dai, buongiorno e ben ascoltati a tutti quanti, dai. 10 watt esce quasi la sua, col finale normale neanche pure 9 watt esce. tu guarda quando io esco con 3 watt. Con 3 watt e 2 watt sono superiori a lui. Deve essere così, devo uscire a passi. Poi ci deve essere un'altra cosa che ti deve compensare tutto. È quello che molti non hanno capito quello. Infatti quello non riesco a capire, capito? Ma c'è gente che quella cosa non ce l'ha e magari aumenta il watt per ascoltarlo di più. Funzionamento migliore deve esserci quello, 3 quarti più col pompaggio. D'altronde se uno il pompaggio non ce l'ha, dopo lasciare lo stesso a 2 watt la radio ci avrà lo stesso, è inutile lasciarlo a 2 watt che andrà pure il bullizzo così dentro sotto, il discorso di sotto, la radio è sempre a 2 watt, quindi ce l'hai o non ce l'hai quella GGU lì, anche se sono 2 watt, uguale come lasciarla a 2 watt, perché tanto i picchi già lo sai come sono con la radio, esce forte lo stesso. Arrivi dove arrivi, basta. Tu dove dico, scusami Luca se ti ho interrotto. Io la pompaggi la posso attaccare solo in macchina, qua in casa non la possiamo attaccare pompaggi. Quindi sto scendo di antenne di radio, 2 watt l'antenna, chi mi ha non ascolti, capo? Salve, io a dire la verità ti sento a bomboletta qua, È positivo, là, però stiamo parlando di zone limitrofe. Ci mancherebbe, c'è una 50 anni, sopra il tetto. Però quando si parla di collegare lontano, la cosa è un po' tribula, perché abbiamo 2 vattini in antenna. Ma cosa fate, già faccio sentire la matracca, anche di uno, guarda. Andà bene, ne approfitto anche per salutare gli amici all'ascolto, Massimiliano e l'amico Gigi Vulcano, cambia. Passaggio, non si è capito niente, non so con chi stavi parlando. Chi era l'altro sotto? C'era sì, vi siete sovramodulati, chi era l'altro? Io sono, ho detto che riprendo dalla Freassi, dai. Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao Antonio, dai. Ciao Giuseppe, ben sentito, buonasera, avanti per te. Sì, grazie Massimiliano, era giusto per darvi il benvenuto a te e all'amico Gigi, cambia. Dove sei Giuseppe, che zona? Adesso qua in stabilimento, via del Porto Torres. Chiama Rogero, dai. Riprendi lui. Ma Gigi se n'è andato nel 5 sicuramente. No, sto sganciando il rimorchio, riprendo subito. Ah, ok, va bene, vai salve. Vabbè, niente, Giuseppe, mi sa che io ne approfitto a farmi il caffè, che è quasi pronto, diciamo, non è che me lo faccio io. Riprendo fra un pochettino, là. Per il momento vi saluto per un po'. Va benissimo Massimiliano, saluto anch'io che anch'io devo entrare in stabilimento tra 2 minuti, dai, magari ci aggiorniamo dopo. Un saluto cordiale a tutta la ruota e ci risentiamo a presto, ciao. Ciao Giuseppe, prima di chiudere ti do un segnale, segnale 8 la radio, perfetto. Grazie, sei un amico e contraccambio, ciao. Miau. Buona figa Massimiliano. A più dopo, al limite. Dai, salve, riprendo dopo che porto il caffè qua, là. Ciao Gisari, a dopo. Salutami Antonio quando lo senti. Antonio è sceso una barra. Riprende subito, cavallo.